Giusto per aggiungere un punto di vista differente a quello che è stato detto, rispetto ai rapporti tra città e campagna, eccetera, vorrei far notare, appunto, ma credo che sia anche convinzione di Pino, che la città non è di per sé un cancro da estirpare, come appunto se da lì deve venire un nuovo ordine, anche rurale. Tant'è vero che fino appunto prima di quella data che lui citava, la città aveva saputo benissimo inserirsi in un territorio di scambi con territorio anche rurale, con l'agricoltura, appunto che adesso viene definita in un lessico urbecentrico, periurbana. Ma forse sarebbe meglio dire che la città è al centro della campagna. Però comunque ha saputo sviluppare i territori circostanti in un modo assolutamente sostenibile, passiamo questo termine. È accettabile, insomma, che non era assolutamente antropocentrico, tant'è vero che lo stesso Bomesin della Riva ci dice quante diverse forme di vita ci fossero nelle immediate vicinanze della città, quando non al suo immediato, al suo interno. Io vorrei parlare un attimo di quello che, appunto, condividendo appieno l'analisi di Pino sotto altri punti di vista, vorrei calare un attimo la cosa più nel concreto. Io sono rimasto, insomma, a bocca aperta l'altro giorno in cui, partecipando a una riunione di responsabili di gruppi d'acquisto solidale, in merito a un progetto di filiera chiusa territoriale, eccetera, eccetera, in un'area su cui la sto lavorando in questo momento, che è la Brianza, quindi un'area ben più compromessa a livello ambientale di quanto non sia questa. In merito a questo progetto produttivo nella Brianza, un signore, insomma, che avrà avuto anche le sue buone ragioni, aveva avanzato dei dubbi sulla sanità dei prodotti di quel territorio. Cioè, io, con il mio gruppo d'acquisto che abito in questa zona X, mi passa l'autostrada a 20 km, perché io devo sostenere un progetto di filiera chiusa qua, che raccoglie, va bene coltivato in modo biologico, eccetera, però raccoglie frumento in quel caso a 20 metri o a 60, 100, 200 dall'autostrada. Io sono rimasto sbalordito a questa affermazione, nel senso che secondo me il presupposto che diciamo, avvalla è la totale rinuncia a vedere quel territorio, peraltro è stato evidenziato anche in quell'assemblea, la totale rinuncia a vedere quel territorio come territorio agricolo. Di fatto si legittima una assoluta libertà di compiere in quel territorio stesso le più grandi crimini, non solo ambientali. Ma sappiamo che quando si cominciano a toccare le cose che mangi e che vivi e il luogo in cui vivi, compi un crimine anche verso le persone, insomma, verso la gente che ci sta lì. Io credo che appunto sia sintomatica questa affermazione di un punto diciamo, di non ritorno in cui questo movimento, che fa parte di quello che citava prima, in tutto in parte, e partecipa a quello citato prima da Pino, questo movimento di, chiamiamolo consumo critico, economia solidale, eccetera, un punto critico a cui questo movimento è arrivato. Occorre capire, e qui mi sono in parziale disaccordo con Pino, ma non lo ritaccio, ma siamo praticamente sempre, nel senso che io credo veramente che le logiche vincolistiche del territorio abbiamo visto negli ultimi 30 anni, quello che hanno, cioè la Brianza negli ultimi 30 anni, dal 1984, scusate, faccio riferimento a quel territorio, me lo conosco meglio, 1984-1990, credo che le date siano esattamente quelle, l'urbanizzazione è aumentata del 20%, e all'epoca già c'erano dei piani, se vogliamo, ancora da sistemare, chiaramente magari piuttosto primitivi, però alcuni vincoli rispetto all'urbanizzazione, eccetera, c'erano già. Quindi io credo che, come era già stato affermato, la politica sicuramente non solo non vuole, ma non è nemmeno in grado, anche quando apparentemente fa delle mosse in questo senso. Io credo che l'appuntamento di oggi, io veramente credo che un'entità come il Folletto possa assolutamente portare avanti, di fare questo passo ulteriore, anche nei gas, con chi portano avanti cose condivisibili o meno, però questa sensazione di sentire che è necessario fare un passo ulteriore, cioè che non è necessario soltanto riappropriarsi della responsabilità del consumo, ma fare uno scatto ulteriore, perché i fenomeni di cui stiamo parlando oggi non sono fenomeni economici, in senso colonnina più o meno, eccetera, eccetera, uguale. Sono fenomeni che interessano il territorio, la gente che ci vive e le coltiva. Quindi è impensabile che questi processi, appunto, di funzionalizzare l'agricoltura da parte della città siano fermati da un semplice atteggiamento di consumo e quindi economico. Io credo, innanzitutto, che si debba ci si deve riappropriare anche di altre responsabilità. È impensabile creare un'economia solidale, qui sintetizzo un po' quello che sto cercando faticosamente di dire, è impensabile realizzare un'economia solidale semplicemente cambiando i comportamenti di consumo. Come ha detto Paolo assolutamente giustamente prima, occorre anche creare nuove forme di vita sociale o nuove realtà che sappiano coniugare nuove forme economiche, nuove forme di responsabilità economica, anche nuove forme di interazione, di relazione, eccetera. Quindi io credo che Folletto in questo senso sia senz'altro una realtà assolutamente preziosa, che avrà un ruolo sempre maggiore e sempre più importante nel futuro. Quello che, sintetizzando moltissimo, propongo io, appunto, su cui sto lavorando, io credo che si debba uscire da una visione che è propria dell'economia solidale di mezzi di emergenza, cioè appunto salvaguardiamo questo terreno, lasciamolo lì, come dice Simonetti nel libro Terra, Libertà, Critical Mind, avere un atteggiamento di uomo protettore, per cui prendiamo un presunto paradiso incontaminato, lo mettiamo sotto, chiamiamo i gas che vengono a comprare lontano dall'autostrada i loro prodotti e siamo a posto, lo teniamo lì appunto come chi accennava prima, questi residuati di fatto di nicchia assolutamente irrilevante da un punto di vista economico. Bisogna uscire da una concezione così di emergenza, di fermare queste realtà, questa biodiversità, per avere una progettualità più ampia che riguardi non solo appunto l'agricoltura, perché riguardi anche lo stesso modo di fare economia, riguardi il modo di vivere in un territorio. Non credo assolutamente che ci sia niente di rivoluzionario o di eversivo, io sono abbastanza così drastico su questo punto, non credo che ci sia assolutamente niente di rivoluzionario di proporre, non so, mettiamo un formaggio realizzato da vacche di una razza introvabile, realizzato con tecniche sopraffine, di qualità eccelsa, anche biosolidale, economico, eco e che cazzo vogliamo, ma non ci sia niente di rivoluzionario se alla fine questo bene non è un bene condivisibile e comune che è espressione di un territorio, ma è espressione di una filiera privata, intonsa e inquinata, assolutamente corretta e ineccepibile, soltanto spesso una filiera personale, perché appunto il pazzo, per usare un termine che è già usato tra mille virgolette, di turno l'ha realizzata, e il pazzo di turno, forse ancora più pazzo, che ha i soldi, può comprarsi. Ecco, su questo sono abbastanza drastico, non c'è assolutamente niente rivoluzionario in questo, credo. Appunto si va verso logiche di marginalità a cui faceva riferimento prima. Io credo che la strada a seguire non sarà l'unica, ma io credo che sia una delle tante percorribili, sia quella di creare soggetti che vadano oltre il diamo mercato a questa gente, oltre il diamo mercato a questa gente, con rispettivo poi oltre prendiamoci le cose buone per noi. Cioè occorre creare dei soggetti economici che io ritengo possano nascere attraverso la cooperazione, che mi sembra in tempi di scandali consorte, Unipol eccetera, debba ancora rivelare il vero senso che ha avuto quando è stata fondata a spese di vite e di sacrifici anche, insomma. Credo che si debba andare da questo punto di vista di iniziative economiche congiunte tra soggetti di produttori territoriali e consumatori dello stesso territorio, che si occupano sia dell'intermediazione alimentare, come in questo senso, cioè di approvvigionare con una rete locale di produttori, non io vado a prendere il vino di Calabria o il vino della Val d'Aosta per portarmelo lì. Non ha senso questo, non ha senso nella misura in cui non incide direttamente sul territorio, non incide direttamente sulle relazioni territoriali, eccetera. Mentre ha molto più senso fare un discorso di cui accennava prima Gabriele, in cui io che abito a Beategrasso mi rifornisco direttamente sul territorio del Beategrasso, con i mezzi che riterrò più opportuni, ma costringo loro a diversificare le loro culture e andare a costruire una tangenziale su un campo che mi dà non genericamente agricoltura di qualunque, ma l'anno prossimo so che mi deve dare X di patate, magari con la varietà che ha piantato Nicolò, diventa più difficile perché quello ha un ruolo anche sociale all'interno di un territorio. Io credo questo, e per concludo veramente, chiedo scusa se mi dilungato troppo, io sto cercando di progettare. Sì. No, nel senso maestro, io non... Scusatemi. Scusatemi. Sto cercando di progettare a Mezzago, che è un comune, insomma, attraverso una cooperativa proprio, quello che io definisco un po' di tirandomelo un po', insomma, di una cooperativa di coproduzione territoriale, cioè un ristorante in cui prima di tutto la proprietà è direttamente degli attori sociali del territorio, per cui coproduttori, cioè quindi consumatori e produttori anche, che hanno, detengono questo passaggio che di solito li allontana, quindi fagocitano la filiera dai due estremi e poi facciano operazioni di trasformazione, quindi si mettono a servizio dei produttori perché la trasformazione, l'abbiamo forse sottovalutata nelle nostre analisi, è un'espropriazione pazzesca, perché tu vendi ciliegie e l'altro vende marmellata. Il passaggio è minimo, su larga scala, però il passaggio economico è rilevantissimo. Che facciano trasformazione e poi abbiano anche un punto, oltre che di ristorazione, anche di connessione territoriale. Non è soltanto andare a comprare un'arancia, in Brianza, ma evidentemente, ma andare a comprare un prodotto agricolo in un punto, saltando dei passaggi, ma andare in un punto che possa connettere anche la rete sociale di quel territorio, il che avrebbe anche un significato poi anche in termini di sociali, anche se vogliamo turistici, insomma, questo è un caotico resoconto.